Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono le 17.05, buonasera a tutti, da Deborah Rosciani, buonasera a tutti gli ascoltatori di Focus Economia. Questa settimana ci sono io a tenervi compagnia in questa ora pomeridiana, nel corso della quale vi raccontiamo quali sono stati i principali fatti economici della giornata. Prima di tutto, chiaramente, partiamo con la borsa. Dopo quello che abbiamo visto giovedì e venerdì scorsi, oggi c'era grande ansia da parte degli operatori per verificare di quale tenore fosse l'apertura della settimana sui mercati finanziari internazionali, e l'apertura è stata decisamente positiva, quindi gli indici preferiscono leggere positivamente le dichiarazioni rilasciate giovedì scorso da Mario Draghi, numero uno della Banca Centrale Europea, sul programma di riacquisto dei titoli di Stato dei paesi in difficoltà, e quindi consolidano largamente i rialzi già messi a segno nella seduta di venerdì. Abbiamo un più 1,77% a Milano, rialzo di un punto a Parigi e Francoforte, Londra guadagna lo 0,72%, ha avuto questa mattina un problema di natura tecnica il listino spagnolo, l'Ibex 35, poi nel primo pomeriggio ha ripreso regolarmente le contrattazioni ed è letteralmente volato, con rialzi che sono stati anche nell'ordine di oltre 3 punti percentuali. Tra l'altro, questa situazione porta ad un nuovo e ulteriore contenimento del differenziale di rendimento fra i titoli italiani e tedeschi. Il differenziale fra Italia e Germania sulla scadenza decennale, quindi lo spread, per chi si fosse dimenticato di questo termine, ma non ci crediamo molto, ormai è la prima cosa della quale parliamo ogni mattina, è a 459 punti base in questo momento. Quindi parleremo a lungo di questa nuova giornata sui mercati per capire se si è davvero ormai propagato e diffuso un clima nuovo, più ottimistico, se c'è qualche altra mannaia dietro l'angolo pronta a smorzare gli entusiasmi. Naturalmente la politica e la finanza si intrecciano strettamente, lo sapete bene, ed ha suscitato un grande disappunto politico, lo sentivate anche nelle GR, l'intervento su Der Spiegel da parte di Mario Monti, il nostro presidente del Consiglio, e ritorneremo a raccontarvi che cosa ha detto, quali sono state le principali dichiarazioni appunto rilasciate sulla stampa tedesca, che hanno fatto tanto arrabbiare la Germania, molti esponenti politici. Quello che ci chiediamo soprattutto è come mai c'è stato questo cambio di marcia anche nei toni, e se soprattutto ci dobbiamo aspettare adesso una sorta di rappresaglia politico-economica, lo capiremo più tardi. Parleremo poi della giornata di borsa, come sempre, per raccontare l'andamento dei singoli titoli. A Piazza Affari sta volando Mediaset, più 11%. Anche da qui capiamo quanto è strano il mercato, un titolo tanto bastonato settimana scorsa dopo i risultati societari del semestre, dopo aver indicato prospettive di ancora ulteriore calo della raccolta pubblicitaria, un mercato difficile. Oggi il mercato ci ripensa, dopo avergli fatto perdere tanto terreno o averlo fatto precipitare ai minimi storici, oggi il titolo ribalza di 11 punti percentuali. C'è anche da monitorare l'andamento delle banche a Piazza Affari, perché, come vi abbiamo anche raccontato stamattina a Salvadanaio, sono state colpite da una nuova decisione di un'agenzia di rating, di Standard & Poor's, di declassare appunto 15 istituti di credito italiani, 3 finiscono addirittura nella rosa dei junk, della spazzatura, eppure il mercato oggi riesce totalmente a trascurare la bocciatura appunto di Standard & Poor's, che non ha colpito tuttavia i 2 big del settore bancario italiano, Intesa San Paolo, che infatti oggi vola del 5,49%, va da un'altra direzione, da un'altra parte Unicredit che perde un punto, che non questo calo non ha nulla a che fare con gli interventi dell'agenzia di rating, che appunto non ha riguardato Unicredit, ma sono arrivati altri analisti e altre società di investimento a colpire nelle valutazioni del titolo. Parleremo nel finire della trasmissione di un'altra vicenda che rischia di mandare in fumo le vacanze per molte famiglie italiane, la vicenda Winjet. Non c'è estate che si rispetti che non abbia un caso clamoroso che riguarda le vacanze degli italiani, o il fallimento di un tour operator o altre storie. Adesso ci mancava questa: Winjet deve integrarsi con Alitalia, ma guarda caso lo stop alle trattative per questa aggregazione arriva proprio il 6 agosto, nel pieno della stagione turistica. Davvero un fatto clamoroso. Noi più tardi sentiremo che cosa è successo, da quanto si si sapeva che queste due compagnie dovevano integrarsi, come mai le trattative si sono improvvisamente bloccate? E soprattutto sentiremo più tardi il presidente dell'ENAC, l'autorità appunto del controllo dei voli in Italia, che sta monitorando molto attentamente l'evoluzione della vicenda e si spera appunto che nel giro di poche ore si possa risolvere. E in ogni caso però i disagi per molti passeggeri ci sono già stati, oggi ritardi pazzeschi per molti voli, fra le 4, i 5 e le 6 ore addirittura. Non ci risulta che sia stato annullato alcun volo, solo grandi disagi e grandi ritardi. Come sempre 349-238-6666 il numero che, se vorrete, vi permette di indirizzarci i vostri messaggi, le vostre riflessioni sui temi della giornata. Adesso andiamo alle altre notizie in breve. Intanto, come sempre, un'occhiata in apertura di trasmissione all'andamento delle commodities, le materie prime. Monitoriamo sempre l'apertura sui mercati di oro e petrolio. L'oro ha aperto in rialzo a 1607,56 dollari l'oncia. Il petrolio ha aperto oggi a New York in calo rispetto alla chiusura di venerdì a 90,87 dollari. Questa è una notizia che ci ha incuriosito molto in questa giornata. Noi ce ne siamo occupati questa mattina anche a Salvadanaio, tra l'altro raccogliendo il vivace disappunto di molti ascoltatori che ci hanno detto: di fronte a questa decisione noi boicotteremo le pompe di benzina. Perché che cosa è successo? Che il gruppo Shell, lo conoscerete senz'altro molto bene, è un gruppo tra l'altro anglo-olandese, ha deciso di ritirare la liquidità depositata nelle banche europee a causa dei rischi connessi alla crisi del debito sovrano dell'Europa. Eurozona. Lo ha dichiarato al Financial Times il direttore finanziario del gruppo Simon Henry, spiegando: noi non abbiamo più la stessa propensione al rischio di credito in Europa. Il manager ha spiegato che il gigante petrolifero preferisce allocare i suoi 15 miliardi di liquidità, non stiamo parlando di noccioline, su conti statunitensi o in alternativa trasformarli in titoli di Stato americani, cioè in Treasury. Knight Capital Group, una delle maggiori società di trading mondiali, ha raggiunto un accordo per un finanziamento di 400 milioni di dollari che le consente di continuare ad operare dopo i problemi tecnici che la società ha avuto lo scorso 1 agosto. La notizia è riportata dal New York Times. Nessun accordo ufficiale è stato ancora annunciato, però. Secondo indiscrezioni, 3 ore dopo i problemi tecnici di mercoledì scorso, che hanno lasciato il gruppo con 4 miliardi e mezzo di dollari di titoli che non aveva previsto di acquistare, l'amministratore delegato della società, Thomas Joyce, era al telefono con il presidente della SEC, l'autorità di controllo del mercato americano, Mary Shapiro, chiedendole di cancellare alcune transazioni. Un'idea che Shapiro ha respinto, dando vita alla spirale al ribasso di Knight Capital. Parlavamo prima dello spread, del differenziale Italia-Spagna, che resta stabile sotto i 460 punti base, livello sul quale ha ruotato per quasi tutto il giorno. Il rendimento dei titoli italiani è dunque, grazie a questo abbassamento del differenziale, sceso sotto la soglia del 6% al 5,99%. Senza scossoni, oggi anche il differenziale dei titoli spagnoli, i bonus, che sulle Bund tedesco quotano 527 punti base. Si è conclusa la missione della Troica in Grecia. I colloqui con il governo greco sono stati produttivi e si è giunti all'intesa che le autorità di Atene si impegnino ad intensificare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi, procedendo con determinazione nel lavoro entro il mese di settembre. Così la Troica, formata da Unione Europea, Fondo Monetario e Banca Centrale Europea, appunto in una nota congiunta, tra l'altro anche questa notizia oggi probabilmente ha fatto bene al mercato. E però, a ritorno dalle vacanze, i greci saranno colpiti dai nuovi tagli ai salari e alle pensioni e dalle cartelle fiscali, il cui invio era stato ritardato al dopo elezioni. Basterà arrivare agli inizi di settembre per vedere la gente tornare a manifestare nelle strade e a dar via ad un autunno caldo. È la previsione di Kostas Panayotakis, economista del New York City Community, intervistato dal Mattino. Secondo l'economista di origine greca, le misure di austerità sull'economia del paese stanno avendo l'effetto di strangolarla. Andiamo all'altro fronte caldissimo della crisi europea. La Spagna, continuano a crescere i fallimenti di famiglie ed imprese spagnoli, giunti al record dal 2004. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, il numero di società e persone fisiche che ha chiesto la sospensione dei pagamenti nel secondo trimestre è salito a 2.272 rispetto a 2.240 del trimestre precedente, con un rialzo del 28,6% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Delle imprese fallite, oltre il 30% appartiene al settore delle costruzioni e per la grande maggioranza si tratta di piccole e medie imprese. I fatti economici italiani. Il governo pone la fiducia sul decreto sulla spending review nel testo già approvato in prima lettura al Senato. Lo ha annunciato all'Aula di Montecitorio il ministro dell'Economia Vittorio Grilli. Le vicende della Ilva, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari è chiaro e netto, dispone la chiusura dell'impianto di Taranto, ma chiudere Taranto significa chiudere anche Genova e Novi Ligure. Sarebbe un intervento tragico per la vita dell'Ilva, lo ha detto il presidente della società siderurgica Bruno Ferrante oggi nel corso di un'audizione. Ferrante ha aggiunto: l'azione della magistratura nei confronti di questa azienda si è svolta senza che l'Ilva approntasse una difesa e la decisione del GIP è avvenuta in assenza di memorie difensive o perizie. Ora al riesame presente questa documentazione, ho fiducia che il Tribunale del riesame ne terrà conto. Ulteriore contrazione del 5% nel 2012 delle consistenze del credito al consumo, che dovrebbe attestarsi a 107 miliardi di euro. Il credito al consumo in sostanza rappresenta tutto quel gruppo di prestiti personali che le aziende, appunto, di credito, le banche finanziarie fanno alle famiglie italiane. Lo prevede l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori su dati ABI, Assofin, Istat, secondo cui dal 2009 l'indebitamento, pari a 4.618 euro a famiglia e 1.910 euro ad individuo, subirà una diminuzione complessiva del 7%. Non sappiamo bene se interpretare come positiva questa notizia. Di fatto c'è più difficoltà da parte delle banche a fare prestiti, più difficoltà da parte delle famiglie a farne richiesta, perché si teme che non si sia in grado naturalmente di poi assolvere a questi impegni finanziari. Di fatto forse non è esattamente una buona notizia, anche se è bene naturalmente che le famiglie siano sempre meno indebitate. Ancora un paio di notizie prima di andare al primo approfondimento. Agosto gelido per le partenze degli italiani, che fanno segnare un crollo del 29,5% rispetto allo stesso mese del 2011. In questo periodo partiranno 15 milioni e 400 mila dei nostri connazionali contro i quasi 22 milioni dell'anno scorso. Pensate che calo. Lo ha reso noto Federalberghi, che evidenzia anche un calo nel giro d'affari complessivo dell'estate del 22%. Due righe su Alitalia e Winjet, tema che approfondiremo nella seconda parte della trasmissione. Da questa mattina sono ripartite le trattative fra le due società per trovare un accordo sulla fusione ed evitare il fallimento della low cost siciliana. Anche oggi alle prese con disagi per i passeggeri a causa dei ritardi dei voli in partenza. Dall'ENAC si apprende che non c'è alcun termine per la firma dell'accordo e che l'autorità sta monitorando la situazione, sia dal punto di vista operativo sia della trattativa, auspicando che si concluda positivamente al più presto. Fonti vicine al dossier indicano che potrebbe essere trovata una soluzione entro domani. E adesso andiamo al nostro primo approfondimento di oggi. Parliamo di un nuovo scontro fra Italia e Germania e non è certo di calcio. È il tema sul quale aprono molti quotidiani oggi nelle versioni online, e sicuramente questa seconda parte della vicenda domani arricchirà tutti quanti i giornali. Non è affatto piaciuta alla politica tedesca, maggioranza ed opposizione, e come poteva essere diversamente, poi cercheremo di capire anche perché, l'intervista di Mario Monti al settimanale Der Spiegel. Ad essere criticate sono soprattutto le considerazioni sull'influenza che i parlamenti hanno sull'azione dei governi in ambito europeo. Per esempio il ministro degli esteri tedesco Westerwelle ha detto che il controllo dei parlamenti sui governi è fuori discussione perché l'Europa ha bisogno di rafforzare e non di indebolire la propria legittimazione democratica. Anche il portavoce del governo ha detto che per la cancelliera Angela Merkel la Germania è andata bene attraverso la collaborazione fra governo e Parlamento. Il portavoce della Commissione europea ha espresso rispetto per le competenze dei parlamenti nazionali. Allora adesso vi ricorderemo che cosa ha detto con grande chiarezza Mario Monti su questa intervista e sentiremo un po' che tipo di conseguenze potranno anche esserci. Per fortuna lo spread oggi è stato tranquillo, non ha avuto un impatto diretto rispetto a tutto questo. Buonasera a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera a voi, buonasera. Allora, mi rifaccio per riprendere un po' il contenuto dell'intervista Der Spiegel da parte appunto di Mario Monti, a come la ricostruisce anche quest'oggi sulle Corriere della Sera, prendo la concorrenza, l'ex ambasciatore appunto Sergio Romano, che peraltro ha anche un punto di osservazione molto interessante rispetto a questo battibecco politico pesante a distanza, perché essendo stato chiaramente un diplomatico di lungo corso sicuramente riesce anche ad avere una visione extra rispetto a quella che abbiamo noi. Allora, nella lunga intervista al settimanale tedesco vi sono, ricorda Romano, tutti gli argomenti che il Presidente del Consiglio ha già illustrato ai suoi interlocutori stranieri nel corso degli ultimi mesi. L'Italia, ha ricordato, ha rimesso a posto i suoi conti, ha fatto molte delle riforme necessarie alla sua crescita, non chiede aiuti finanziari e insiste sullo scudo contro lo spread, soprattutto perché ritiene nell'interesse comune che occorra contrastare con un energico segnale l'isterismo dei mercati finanziari. Nulla di nuovo quindi? No, la novità è nel tono di un'intervista in cui i tradizionali temi tecnici hanno ceduto il passo ad altri riflessioni. Per la prima volta in questi mesi Monti ha detto ai tedeschi che il problema non è soltanto economico, è anche storico e culturale. Guido, ci dobbiamo aspettare una rappresaglia politica, l'abbiamo già avuta, ma anche economica rispetto a tutto questo? Ma io non credo, da questo punto di vista, che ci sarà un impatto diretto di una polemica che, come dicevi tu, è più di carattere forse storico, certamente anche politico, ma non direttamente che possa impattare sui mercati. Certamente è una polemica importante, per così dire, perché impatta, questa sì, sul dibattito su a che punto è l'Europa in questa fase e su in particolare su uno strumento, lo ricordate voi, lo scudo antispread che ha chiesto il presidente Monti, per il quale siamo entrati nel rush finale della partita. Se dovesse essere chiesto, le condizioni politiche fissate nel vertice di giugno prevedevano sostanzialmente solo una riconferma degli impegni già presi dai singoli stati in difficoltà. Questo riguardava anche l'Italia, che sta facendo, come sappiamo, i suoi compiti a casa, però dal punto di vista dell'applicazione tecnica ci sono anche scuole diverse di pensiero, e in particolare ce ne sono anche in Germania, dove dicono che sostanzialmente andranno rinegoziate diverse condizioni, e quindi il gioco si fa ancora più duro. Quindi per questo credo che Monti abbia sollevato una questione politica importante, e ricordiamo anche che si vota l'anno prossimo in Germania, e quindi sono questioni ad altissima sensibilità politica che coinvolgono il ruolo, diciamo, del Parlamento tedesco. E su questo vorrei ricordare che è molto attesa la sentenza, il verdetto della Corte Costituzionale tedesca per il prossimo 12 settembre, che riguarda proprio la creazione del nuovo fondo salva stati e il fiscal compact. Però noi dobbiamo ricordare che proprio questo, la Corte tedesca funziona come da sentinella, diciamo, dell'identità costituzionale tedesca, ed era già intervenuta ai tempi del Trattato di Lisbona, sostanzialmente chiedendo maggiori poteri ai parlamenti nazionali, e in particolare ovviamente al Parlamento tedesco, essendoci un deficit di democrazia a livello europeo. E quindi torniamo un po' a questo discorso. Monti dice i governi devono avere più autonomia rispetto ai parlamenti nazionali, i tedeschi gli rispondono facendo perno su una storia molto consolidata da questo punto di vista: no, il Parlamento nazionale viene prima della regola europea, e quindi credo che insomma lo scontro è pesante. Certo, Guido, per mettere i puntini sulle i sui provvedimenti economici che il governo ha preso in questi mesi e portarli appunto anche all'attenzione della signora Merkel, che comunque li conoscerà molto bene perché non credo che non abbia tenuto sotto stretta osservazione il comportamento dell'Italia nelle ultime settimane, era proprio necessario che Monti sollevasse la questione della nascita del sentimento antitedesco in Italia? O ha fatto un piccolo scivolone? Visto che lui è un buon comunicatore, pesa sempre molto attentamente tutte le parole che esprime. Sì, purtroppo questo è proprio per come è esatto quello che dici te, è un buon comunicatore ed è molto attento e prudente quando esprime le sue valutazioni. Se l'ha fatto vuol dire che evidentemente i margini di manovra politici che stanno appunto che riguardano la partita finale della richiesta di aiuti eventuale per l'attivazione dello scudo antispread sono così esigui che lui è dovuto intervenire duramente per cercare di sbrogliare una matassa che si andava complicando sempre di più. Da questo punto di vista però credo che appunto sia andato a colpire sì nel segno, ma certamente in un punto dove la sensibilità tedesca è fortissima e quindi la reazione è stata fortissima. Ecco, un'altra cosa che Monti ha precisato, poi dopo questa domanda Guido ti lascio, allo Spiegel, ha detto appunto che la sua azione conta sul sostegno morale di alcuni amici europei, Germania in testa, sostegno morale non finanziario, ha puntualizzato. Noi abbiamo visto come il mercato azionario, la borsa, venerdì si sia lanciata su una rinnovata lettura delle dichiarazioni del giorno prima del Presidente della BCE, ma anche sul fatto che il governo spagnolo sia venuto allo scoperto dicendo più o meno apertamente che farà ricorso al meccanismo appunto antispread, lo scudo antispread. Tu ci credi in questa volontà di avere bisogno solo di un sostegno morale non finanziario da parte dell'Italia? La Germania è preoccupata per questo? Beh, io credo che... Ne avremo bisogno o no? Qual è la tua sensazione? La mia sensazione è che sì, avremo bisogno di rivolgerci dopo il passo spagnolo, che secondo me appunto è inevitabile e sta per arrivare, ne avremo bisogno anche noi, e ovviamente avremo bisogno non solo di un aiuto morale, ma di un aiuto sostanziale. Credo che ci sia una differenza però qui in quello che dice Monti. Monti parla di non abbiamo bisogno di aiuti finanziari e continua a parlare di attivazione dello scudo antispread, e quindi credo che nella sua visione sia sufficiente questo per far fronte alle difficoltà, cioè l'attivazione dello scudo antispread, che presupporrebbe semplicemente riconfermare nella decisione di Monti gli impegni che l'Italia ha già preso e i compiti a casa che sta già facendo. Ripeto, però questa è una partita che ancora deve arrivare al suo ultimo atto, e credo che le parole di Draghi dei giorni scorsi, quando ha parlato di severe condizionalità, aprono invece lo scenario verso una rinegoziazione più pesante delle condizioni italiane. Allora, avremo modo di riparlarne prossimamente. Guido, grazie, buona serata, grazie per essere stato con noi. Serata. Io intanto saluto, posso salutarlo intanto prima di andare in pausa, Walter Riolfi, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Che oggi ci interessa molto capire come mai anche tutta questa apertura della settimana con questo grande slancio da parte delle borse, che ormai ci eravamo talmente abituati ad andare sulle montagne russe che oggi chissà, forse quasi auspicavamo un altro bel ribasso per portare a casa quanto guadagnato venerdì, e invece la borsa ci ha sorpreso anche oggi. Cosa c'è dietro tutto questo movimento? Lo capiremo tra qualche istante. 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi, a tra poco. Sono le 17.30, ancora buonasera da Deborah Rosciani per questa puntata di Focus Economia. Siamo ormai alle battute finali di questa giornata sul mercato. Milano si sta accingendo a chiudere con un rialzo dell'1,56%, più 0,8% Parigi, più 0,7% Francoforte, Londra più 0,57%. L'euro ritorna sopra quota 1,24, sul dollaro siamo a 1,24,18. I temi di Piazza Affari li affronteremo tra qualche minuto con i colleghi di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Prima lo scenario più complessivo dei mercati. Abbiamo visto quello che è successo, la schizofrenia delle ultime giornate, quella di giovedì e venerdì. tutte all'insegna dell'inseguimento delle dichiarazioni rese da Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, che giovedì, dopo la riunione del direttivo che ha lasciato fermi i tassi di interesse, ha lasciato capire che la BCE, lo aveva già detto, è pronta ad intervenire sui mercati per sostenere i paesi dell'eurozona in difficoltà, però non avendo dato una chiara indicazione dei meccanismi pronta a mettere in campo, appunto, mentre il mercato si aspettava questa chiarezza, le borse sono crollate. Il giorno dopo poi ci hanno ripensato tutte quante e non solo hanno recuperato i cali del giorno prima, ma hanno fatto anche molto meglio e oggi consolidano e ampliano quei rialzi. Allora, Walter Riolfi, che continui anche tu a guardare con grande curiosità quello che succede, che idea ti sei fatto rispetto a questa tendenza, a questa giornata anche? Forse ci aspettavamo che, visto come si sono comportati spesso e volentieri gli operatori negli ultimi mesi, subito dopo giornate molto brillanti come quella di venerdì, si sono abituati a passare all'incasso immediatamente, perché qua posizioni di lungo periodo nessuno le prende più. E allora oggi come mai questo consolidamento? Vabbè, premessa, prima di tutto stupisce queste reazioni abbastanza isteriche dei mercati, ce le hanno isteriche, no? E questo ormai. Però giovedì, quando parla Draghi, comincia a parlare alle 2:30, diciamo che dopo le 3 qualcuno degli analisti delle varie banche d'affari internazionali roba del genere, poteva avere tutto il tempo di analizzare il discorso di Draghi e vedere che c'erano delle novità sostanziali, addirittura delle novità che aprivano al quantitative easing. In realtà questi qui sono andati avanti a vendere fino alle 5:30, poi anche per quanto riguarda i titoli di Stato fino a quando hanno trattato, no? E in maniera così emotiva, del tutto irrazionale, semplicemente perché si erano fatte delle aspettative eccessive dalla settimana precedente, quando Draghi aveva fatto l'intervista non mi ricordo più quale giornale tedesco. Ma in realtà è stata aspettative eccessive che si erano create e non erano riuscite a cogliere la novità. Tra l'altro bisogna pensare che la Fed e la BCE non è la Fed, la BCE ha a che fare con un'Unione Europea dove ci sono 17 governi, 17 stati, ancora 17 banche centrali e tutta una serie di situazioni completamente diverse, per cui se sembra un po' bizantino il modo di procedere della BCE con questi acquisti, con l'accordo attraverso il fondo salva stati, la Commissione Europea eccetera, è tutto per ovviare a una serie di regole talmente complicate che non assomigliano assolutamente alla semplicità invece degli Stati Uniti. Invece, siccome gli americani continuano a ragionare da americani e quindi hanno continuato per tutto il giorno a dire è negativo, ci ha deluso Draghi, poi ci hanno ripensato un po' e hanno visto che le cose non sono così. In realtà, vabbè, c'è un po' di euforia sulle borse, sul mercato azionario, però vedo una calma abbastanza sospetta su quello obbligazionario, sui titoli di Stato. Certo, le cose migliorano, ma oggi cos'è? Il decennale cala di 3, 4, 5 centesimi. È a 5,99, il rendimento, no? Quindi non mi sembra una gran cosa. Calano un po' di più i rendimenti dei titoli fino a 2 anni, però anche qui mi sembra una roba contenuta, stiamo parlando di 10-20 centesimi, quindi non vedo tutta quella grande euforia sul mercato obbligazionale, mercato dei titoli di Stato, che secondo me è molto più indicativo delle borse. A proposito di quegli investitori americani che hai citato poco fa, ti leggo un paio di notizie che sono apparse sulla stampa americana nelle ultime ore. Le banche di Wall Street si preparerebbero ad una possibile rottura dell'area euro con la potenziale uscita di un paese. Anche questa non è una novità, perché stanno simulando la disgregazione dell'euro almeno da un paio d'anni, per cui non capisco quale sia la novità anche di questo e perché far uscire in maniera così prepotente anche questa notizia, pur avendolo fatto il Financial Times, che sottolinea che ricorrendo a strategie di copertura come i credit default swap, le banche americane stanno riducendo la loro esposizione netta nei paesi in difficoltà. Quanto altro ancora potranno ridurre, visto che mi risulta che non è che abbiano più molto ancora in portafogli? Anche questa è una dichiarazione abbastanza originale. JP Morgan, parlo dei colossi, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley e Goldman Sachs hanno ridotto la loro esposizione, che varia dai 5,4 miliardi di dollari di Morgan Stanley agli oltre 20 miliardi di dollari di JP Morgan. Anche in tutto questo dov'è la novità? Ma novità non è che stiano poi riducendo, no? Perché non ne avevano anche prima. Il problema è che semmai accentuano il ribasso. No? Perché mettono fuori queste voci sul disfacimento dell'euro? A parte il fatto che cominciamo a crederci, e tantissimo anche noi europei, al disfacimento dell'euro. Però perché le mettono fuori? Ovvio, gli investitori americani sono tutti a ribasso e quindi è meglio accentuare le notizie negative. No? Ma comunque al ribasso, per esempio, le varie banche d'affari internazionali ci sono, perché quando tu compri un credit default swap, di fatto tu ti metti al ribasso sul titolo di Stato. È l'unico modo, diciamo, per andare al ribasso, per venderlo, di fatto vendere allo scoperto un titolo di Stato. Un'ultima dichiarazione che ti voglio che voglio condividere con te, quella che ha rilasciato Bill Gross. Per chi non lo conoscesse, è il fondatore e il co-direttore degli investimenti di PIMCO, che è il più grande fondo obbligazionario del mondo. Un piccolo acquisto di questo fondo, una piccola vendita, possono sconquassare le giornate di mercato senza alcun problema. Anche lui, non è che ci è andato tanto per il sottile, di nuovo sempre sul Financial Times, ha invitato gli investitori a restare all'asciutto, cioè state alla larga dal debito di Spagna, Italia e Grecia. Gross ha definito un bluff quello della BCE e del Fondo Monetario di Berlino e Parigi. Il ragionamento di Gross è semplice: forse persino un tasso del 4%, oggi siamo al 6%, sui titoli italiani e spagnoli non è abbastanza basso per non affogare, Walter. Adesso non ho letto la dichiarazione di Bill Gross, l'ho vista poco fa, sintesi, quando. Però allora Bill Gross va preso sempre attentamente, però talvolta è provocatorio. Allora, se quando dice state alla larga, sostanzialmente penso che dica una cosa priva di con molto buon senso, no? Anche perché in effetti non sappiamo cosa succede da qui a settembre, quando il fondo, l'intervento congiunto tra BCE e fondo salva stati dovrà essere implementato. Da qui a settembre può succedere di tutto: può succedere che i falchi della Bundesbank riescano a creare un consenso all'interno dell'Europa, parlo del finlandese e dell'olandese, il nord dell'Europa, sostanzialmente quello slovacco, magari quello se lo giocano tranquillamente. La Slovacchia è una colonia tedesca di fatto, no? E può succedere che la tenebuta finisca per contagiare anche il governo, non è che tedesco, non è che tra opposizione e governo ci siano posizioni così dissimili tra socialdemocratici e la Merkel. E quindi può darsi che a settembre succeda tutto, e come tutte le cose che abbiamo visto in Europa, promesse in qualche vertice, le abbiamo viste annacquate, deluse o addirittura vanificate dal tutto. Quindi la diffidenza di Grossi in questo senso è più che giustificata. Lui insomma dice. Poi, per quanto riguarda il fallimento, c'è una semplificazione dei concetti che si fa di là, dall'altra parte dell'oceano, no? Nel confronto delle robe europee. Per loro quasi tutti i paesi europei sono insolventi. Indubbiamente c'è del vero che anche un 4% potrebbe essere un guaio per alcuni paesi. Mi sto chiedendo se dovesse durare la recessione, per esempio per un paese come la Spagna, che ha una disoccupazione del 25% e crescente, con un'economia che era stata fortemente concentrata sugli immobili e non diversificata. Questo anche un 4% e non il 6,5% può creare dei problemi. Sull'Italia direi che questa prospettiva è assai meno concreta, no? Però in America di solito si fa un fascio di tutta l'erba un fascio. Allora, grazie Walter per essere stato con noi, buon lavoro. Noi adesso invece vi raccontiamo la giornata di borsa. Eccoci qua con i mercati, come se fino adesso avessimo parlato di qualcos'altro, ma andiamo nel dettaglio. Dalla seduta di Piazza Affari c'è con noi Guido Maurino, collega di Radio Corriere Sole 24 Ore. Guido, buonasera. Buonasera. consolidiamo. Allora, scusa un attimo, volevo salutare un ascoltatore che mi dice: sarò fuori tema, Gianni, ma credo che lei abbia la protesi dentaria perché trangugia troppo. Gianni, glielo posso assicurare che ancora non ho dovuto far ricorso alla protesi. Il problema qua è l'aria condizionata molto alta di questi uffici, che mi rende molto problematica la situazione della mia gola, e quindi mi si secca molto facilmente, quindi magari mi rendo conto che vi può dare fastidio. Purtroppo la condizione è questa. Scusa Guido la divagazione, ma mi ha fatto molto ridere il sospetto dell'ascoltatore. Milano dicevamo più 54%, Parigi più 0,8%, Francoforte più 0,7%, Londra più 0,64%. Mi spieghi cosa c'è dietro questo volo di Mediaset più 10,61%, che ha replicato esattamente quello che succede in borsa da qualche tempo. Un titolo che viene abbandonato pesantemente in una seduta, il giorno dopo non solo recupera tutto, ma fa anche qualcosa di meglio. Che è successo al titolo del Biscione? Ma sostanzialmente si tratta ancora sempre di un rimbalzo, non ci sono ragioni specifiche sul titolo, e se vogliamo proprio andare a vedere, è sostanzialmente su valori in linea a quelli che aveva prima della trimestrale diffusa il 31 luglio. Il titolo è stato molto venduto, è stato ipervenduto per due o tre giorni dopo che la società aveva detto che ci sono delle difficoltà sul mercato pubblicitario, gli utili erano scesi di oltre il 70%. Poco per volta, in un paio di sedute, si è sostanzialmente riportata sugli stessi livelli, che sono poi di 1,4 euro del 31 luglio. Allora, andiamo invece al settore bancario. Abbiamo due casi abbastanza evidenti della seduta, che sono Intesa San Paolo ed Unicredit, che sono andati in direzioni completamente opposte, ma mi sembra che ci sia stata una reazione praticamente nulla rispetto al nuovo intervento dell'agenzia di rating Standard & Poor's, di cui siamo venuti a conoscenza venerdì scorso. Guido, quindi una nuova riduzione di giudizio, persino tre banche ridotte a livello spazzatura, ma reazione nulla da parte del mercato. Ormai ci siamo quasi assuefatti, no? E quindi stimoli sì, zero. Ormai ci siamo quasi assuefatti, non hanno più l'impatto dirompente che avevano un tempo questi giudizi delle agenzie di rating, e oggi si guarda forse di più ai conti, ai risultati, alla capacità in futuro di mantenere i ricavi, la qualità del proprio credito, di generare utili. E ovviamente anche di generare dividendo, visto che proprio venerdì Intesa San Paolo aveva detto che si aspetta per l'anno in corso un dividendo forse anche maggiore rispetto a quello pagato per il 2011. Oggi abbiamo avuto su queste due banche, che sono poi le due principali in Italia, Intesa e Unicredit, un andamento opposto. Intesa ha guadagnato più 3,79%, Unicredit ha ceduto l'1,29%, perché gli analisti sostanzialmente preferiscono in questa fase Intesa San Paolo rispetto a Unicredit, giudicando che la banca guidata da Cucchiani abbia una maggiore qualità degli attivi e, nonostante le incertezze dell'economia, la crisi eccetera, sia meglio posizionata di quanto non sia Unicredit. Di Assori, ne più 4,46%, questo titolo riesce quasi sempre ad andare controcorrente rispetto al mercato. Oggi è andata bene insieme a tutto il mercato, ma grazie ai suoi conti che vanno molto bene, anche all'ampliamento del business in India, continua a macinare punti e posizioni, Guido. Sì, diciamo che dallo scorso 24 luglio, che ha segnato un pochettino la fase più bassa dei mercati europei, il titolo ha guadagnato oltre il 20%, oltre il 30% è il rialzo realizzato da inizio anno in una borsa che certamente non ha regalato moltissime soddisfazioni, merito dei risultati e della conferma delle attese per fine anno, e merito di iniziative come la joint venture in India che tu ricordavi, e altre notizie relative al business che gli analisti si aspettano da qui ai prossimi mesi. Ultima storia da raccontare è quella di Buzzi Unicem, peggior titolo della seduta, meno 2,77%, se ce la facciamo anche la storia di un titolo più piccolo, Movimax. Sì, per quello che riguarda Buzzi Unicem, oggi ha ceduto il 2,77%, la società ha sostanzialmente pagato un pochettino dopo il forte rialzo di venerdì, più 6,73%, ci sono state, come dire, un po' di vendite dopo i rialzi della scorsa settimana, che erano seguiti ai conti comunque positivi, con un utile cresciuto del 52%. Per quello che riguarda Movimax, un titolo piccolino che però oggi ha sottoscritto un accordo importante con

Palermo che deve andare a Parigi e non sa che fare. Allora, anche per questo, diciamo, io penso che sia giusto nell'interesse per riguardo ai consumatori che si abbia una certezza. Se la compagnia sta in piedi perché ormai c'è alle spalle l'Italia, meglio per tutti, a questo punto i voli dovrebbero essere regolari. Se non è così, occorre che Wingjet telefoni a tutti quelli a cui ha venduto biglietti avvisandoli che non ci sono i voli e quindi rimborsandoli e dando la possibilità alla gente, se ce l'ha ancora, di avere delle opzioni, perché non si possono rovinare. Se questo rischia di vanificare un'intera vacanza, non sono contemplati programmi di riprotezione, cioè in ogni caso che il biglietto va rimborsato all'Italia non si potrebbe incaricare di questo, no? Visto che è stata anche un po' parte in causa del fallimento delle trattative, mi chiedo. Questo è quello che noi abbiamo chiesto dall'Italia, come anche ad altri vettori. Ieri per esempio era pronto a farlo da Torino Meridiana, con ovviamente il pagamento di un piccolo supplemento, quindi insomma non saranno più i prezzi che le famiglie avevano avute al momento di acquistare il biglietto. Noi abbiamo chiesto di fare un prezzo politico, quindi quasi simbolico, e però il problema è se ci sono i posti, perché questo è il periodo in cui tutte le altre compagnie viaggiano a stracolmo. Infatti. Quindi dobbiamo avere una analisi chiara per evitare che la gente si presenti in aeroporto e poi si creino confusione o ulteriori aggravi. Meglio sapere che non si parte piuttosto che andare lì a aspettare ore ed essere trattata male. Questo noi non lo consentiremo. Presidente Riggio, buon lavoro, un'altra estate calda per lei. Grazie, a presto. Grazie. Presidente dell'ENAC Giuseppe Chiellino. Allora, ho dovuto battere il ferro finché era caldo. Presidente Riggio ci ha dato pochi minuti, quindi lo abbiamo sentito immediatamente. Con te riprendiamo un po' le fila del discorso e ricordiamo, anche se lui all'inizio ce l'ha detto, come mai queste due compagnie stavano andando ad integrazione ed esattamente che cosa è successo, circostanza tale per cui Alitalia ha deciso di bloccare improvvisamente le trattative. Perché ha voluto appunto rinegoziare a ribasso il prezzo dell'acquisizione? Ma il motivo principale è la decisione dell'antitrust, dell'autorità che garantisce la concorrenza sul mercato, che il 18 luglio scorso aveva dato il via libera all'acquisizione, al merger, alla fusione tra le due compagnie, ma aveva posto delle condizioni. Le condizioni riguardavano sei coppie di slot sui collegamenti tra Catania e Linate, Palermo e Linate, Catania e Fiumicino. Queste condizioni imposte dall'antitrust, secondo l'Italia, riducono il valore della compagnia. Se ho sentito bene, prima il presidente Riggio ha fatto anche una cifra. Sì, guarda, adesso mi pare 2 milioni, sì, se ricordo mi bene. Mi sfugge. Che finora non era stata indicata al momento. Il primo giornale a tirar fuori questo problema è stato proprio il Sole 24 Ore, con Gianni Dragoni, che conosce molto bene le vicende del trasporto aereo, e la settimana scorsa aveva acceso un riflettore su questa vicenda. E in effetti, anche leggendo gli articoli di Gianni e vedendo la decisione, i documenti dell'antitrust preparatori alla decisione, francamente a me sembra che sei coppie di slot bloccate per 4 anni, cioè questi collegamenti, la nuova Alitalia più Wingjet non dovrà venderli, non dovrà abbandonarli, dovrà cederli solo per 4 anni sotto il controllo di un soggetto terzo ad altre compagnie. Dopo i 4 anni se le può riprendere. Questo per fare in modo che la quota di mercato di Alitalia più Wingjet su questi collegamenti, su queste rotte, non comprometta la concorrenza, quindi i diritti dei consumatori. Ma allora l'intervento dell'antitrust è stato fatto quando? La decisione del 18 luglio. Ah, ecco, quindi è recentissima. Questo è il motivo, sì, per cui effettivamente l'Italia sta andando adesso a giocare a ribasso, tra l'altro approfittando anche del fatto che ci sono molte, certo, persone che devono partire, e quindi mette un po' in una condizione di difficoltà. Certo, anche perché francamente le dimensioni di Wingjet rispetto all'Italia sono, sul mercato italiano, sono più o meno di un sesto, parlando di fatturato. E a me la decisione dell'antitrust non mi sembra così penalizzante rispetto ad altre rotte, perché sempre dai documenti dell'antitrust ci sono rotte servite dalle due compagnie che sommate coprono il 100%, per cui per esempio Catania-Bologna, Alitalia più Wingjet è 100%, cioè vuol dire che se queste due compagnie si fondono, non c'è un'alternativa a volare con Alitalia. Lo stesso vale per Catania Bologna-Pisa, Palermo-Linate e Palermo-Torino, rotte per le quali l'antitrust non ha sollevato alcun problema. Mentre invece ha sollevato problemi sugli aeroporti più importanti, che sono soprattutto Linate, quello che ha un problema di scarsità di slot. Gli slot sono quei pochi minuti, quelle finestre. Volevo fartela la domanda prima, dico, ma poi se non lo sa, perché io non saprei dare una definizione di slot, se ce lo dici. Mi aggiusto la protesi. Ecco, bravo. Gli slot sono quelle finestre di pochi minuti all'interno delle quali un aereo può decollare o atterrare in un aeroporto. Quindi se perde lo slot, se non riesce a, perché per esempio ritarda l'imbarco dei passeggeri, allora si verificano per esempio tutti i ritardi come si sono verificati oggi. Esatto. Ce n'è stato uno divertentissimo, anche se non si saranno sicuramente divertiti i passeggeri che dovevano partire con quel volo, praticamente un viaggio per Marsalam bloccato di Winjet, perché in realtà in Egitto c'è lo sciopero dei beduini contro il caro benzina, per cui oggi, per non farsi mancare niente, i viaggiatori con Winjet davvero ne hanno subite di tutti i colori. Tra l'altro, 10 secondi Giuseppe per spiegare ai nostri ascoltatori: se dovesse saltare l'operazione all'Italia Winjet, rischiano di rimanere a terra i passeggeri dei voli, ma anche livelli occupazionali sono da tenere in considerazione. Certo, l'accordo prevede che 400 dei 500 dipendenti di Winjet dovrebbero essere assorbiti da Alitalia, quindi se l'accordo salta vuol dire che queste 400 persone si troverebbero senza lavoro. In più ci sono circa 300 persone che lavorano nel cosiddetto indotto, cioè nei servizi a terra fatti da altre società destinati alla compagnia, che avrebbero difficoltà. Chissà che non arrivino delle novità importanti. Domani noi ne riparliamo di tutto questo alle 12.10 a Salvadanaio. Ci sarà di nuovo anche Giuseppe Chiellino con me, sentiremo le associazioni dei consumatori, come stanno assistendo i passeggeri infuriati in queste ore. Per fortuna che i voli ancora sono partiti tutti, niente è stato bloccato, solo grandissimi ritardi in tutta questa giornata. Grazie Giuseppe, a domani. Grazie a voi. Grazie a Mauro Del Corno e a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Pietro Lacorte oggi in assistenza tecnica. Arriva un nuovo giornale radio a tutti, buona serata. Radio 24, la passione si sente.